in primo piano. Martedì 21 dicembre le aperture sono diversificate, c'è chi come il Sole 24 Ore punta sull'indagine di Banca Italia che abbiamo sentito nel GR, nelle case metà della ricchezza. Poi la politica per il Corriere, Casini apre a Berlusconi. Per Repubblica, Napolitano no alle elezioni, lo stesso identico titolo è della Stampa. Per il Giornale, addio PDL, torna Forza Italia. Mentre il Fatto Quotidiano su Gasparri, allarme, son fascisti. La vicenda Calipari invece per l'Unità, così hanno tradito Calipari e anche l'apertura del Manifesto, perché ovviamente coinvolge anche Giuliana Sgrena del Manifesto. Il titolo del Manifesto è Archivio di Stato sulla foto di sfondo di Calipari. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è questa, e tra l'altro avremo il vice sindaco di Milano decorato tra un'ora alle 8:20 a parlarne in onda. Il giudice ordina casa ai Rom. È una vicenda che è avvenuta a Milano. Questo è il titolo, tra l'altro, che ho letto di prima pagina della Padania, con la Lega già mobilitata. Quest'oggi protesterà davanti, credo, al Tribunale a Palazzo di Giustizia. Il giudice dà ai Rom le case degli italiani, così la propone Libero. Mentre Repubblica, Milano, la vittoria dei nomadi, il comune assegni le case. Allora, la vicenda è questa. Alcuni Rom, 10 credo, avevano chiesto di avere delle case popolari in cambio di lasciare il campo nomadi di via Triboniano. Le case non le hanno mai ottenute, sono rivolte al magistrato e i magistrati le hanno dato ragione. Il giudice Bicchi, che è il giudice del Tribunale Civile di Milano, ha deciso che c'è una discriminazione di tipo etnico e dunque il giudice ordina alla Moratti, al sindaco di Milano, date le case ai Rom. Dà torto dunque al ministro Maroni, al prefetto Lombardi, al sindaco Moratti e dà casa a 10 famiglie Rom. Ecco, non sono 10 Rom, ma 10 famiglie Rom di nazionalità rumena. Dovranno avere le chiavi entro e non oltre il 12 gennaio. Matteo Salvini della Lega, che coordina oggi la protesta davanti al Palazzo di Giustizia, dice che è una sentenza sconcertante, un giudice che si sostituisce al sindaco e al ministro dell'interno, qualcosa non funziona più. Il patrimonio edilizio pubblico non può essere regalato a dei fuori legge, così sentenzia Matteo Salvini della Lega. La trovate su tutti i giornali, ne parleremo, ripeto, alle 8:30, anzi 8:20 è meglio, con il vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato, che sarà nostro ospite, colui che tra l'altro è stato anche aggredito un paio di giorni fa, ci spiegherà come è andata. Voglio segnalare anche la prima intervista a Mr. Wikileaks, Julian Assange, che è libero. Sconta gli arresti domiciliari per la verità in una lussuosa villa messa a disposizione da un ex inviato di guerra, Vaughan Smith, a Norwich. Lo intervista il País e l'intervista è riproposta da Repubblica in prima pagina. Joseba Elola lo intervista, è la prima intervista di Julian Assange da quando c'è stata tutta la vicenda. Una storia inquietante racconta la giornalista della sua carcerazione, peraltro è questa: un giorno in carcere mangia un piatto di riso e fagioli, all'improvviso si rompe qualcosa in bocca. Che cos'è? Un dente. Addio a un dente, un oggetto metallico gliel'aveva spezzato, non so se ce l'avevano messo apposta. Ecco, già subito Julian Assange inizia con il complottone, no? Gli volevano spaccare un dente probabilmente. Sta di fatto che poi sono uscito dalla cella, sono tornato e il dente era sparito. Ecco, nuovo mistero, il dente di Julian Assange, che poi conclude così: lo rivenderanno su eBay, la rivendita del dente di Julian Assange. Assange che dice: è meraviglioso aver abbandonato l'isolamento, ora ci sono anche dei politici che mi sono vicini, per esempio Lula, ma è un caso speciale perché ormai non è più il presidente del Brasile e non deve rendere più omaggio agli Stati Uniti, ce l'ha con gli Stati Uniti. Il vicepresidente Biden mi ha definito un terrorista tecnologico. In prigione com'è andata? Beh, sono stato trasferito 3 volte, sono stato nelle celle dei nuovi arrivi dove ci sono i pedofili, i condannati per reati sessuali, gli omicidi di bambini, ma poi hanno pensato che era troppo pericoloso per me restare lì. È un Julian Assange che dice: terrorista io, pensi a Biden, a cosa fanno gli Stati Uniti. E poi che dire delle inchieste di stupro ai suoi danni in Svezia? Queste denunce sono un falso. Non c'è nulla di ciò che qualsiasi persona ragionevole definirebbe uno stupro. Non ho mai avuto un rapporto sessuale con una persona senza il suo consenso. Non voglio dire che sia un complottone, ecco, lo dice, e che ci siano degli ordini che partano da Hillary Clinton e arrivino fino al giornale Guardian. Le cose non funzionano così nel mondo reale, ma il grande potere crea un ambiente nel quale gli individui percepiscono ciò che vuole il potere e se ne nutrono. Anche senza istruzioni dirette, ogni individuo percepisce in quale modo agire per massimizzare i suoi interessi, ambizioni di carriera, fama, mantenere e creare alleanze, fare dei favori ad amici, parenti, membri di uno stesso partito, fare le cose per paura, senza che te le abbiano chieste. Tutte queste cose creano un ambiente. Non è un complottone, ma è un ambiente per Julian Assange. Finalmente libero, in galera ero con i pedofili. Questa è la prima intervista di Mr. WikiLeaks. La politica sono tutti i movimenti di assestamento per cercare di allargare questa maggioranza con Napolitano. Ieri il capo dello Stato, come racconta Dino Pesole a pagina 7 del Sole 24 Ore, che dice no al voto ma si governi. L'auspicio, scrive Pesole, che la legislatura giunga al suo termine naturale. La condizione è che vi sia però la prospettiva di un'efficace azione di governo, un produttivo svolgimento dell'attività delle Camere. Fa notare Dino Pesole che il ragionamento del Presidente della Repubblica implicito è quello che un po' tutti si fanno, cioè con tre soli voti di scarto non si governa. Allora, se effettivamente, come assicura Berlusconi, sarà possibile ampliare l'attuale maggioranza, nulla questio. In caso contrario si aprirà una nuova fase. Ma infatti l'allargamento della maggioranza è quello su cui si lavora ancora sotto traccia. Per esempio, guardate come il Corriere pone in apertura di prima pagina l'intervista che Casini ha fatto al TG1 ieri. Casini apre a Berlusconi, è il titolo di prima pagina, e Casini ieri al TG1 che ha detto? Ha detto si possono fare le riforme e governare anche con numeri scarsi, dice Casini, il suo partito è pronto a sostenere il governo se arriverà un appello in tal senso. E tra l'altro Marco Galluzzo sul Corriere, Berlusconi scrive, Berlusconi lo prende anche in giro perché dice di Casini prende il 6% soltanto perché piace alle signore. Eppure Casini fa un'apertura moderata a Berlusconi, ma insomma è tutto un movimento sotto traccia per cercare di allargare la maggioranza anche con quello che è definito ormai il gruppo dei responsabili, 22 deputati, coloro che hanno contribuito fattivamente alla votazione di fiducia lo scorso 14 dicembre. Ebbene, oggi quei 22 deputati del cosiddetto gruppo dei responsabili daranno vita alla Camera a un coordinamento, lo racconta Francesco Bei su Repubblica pagina 3. Viene definita la Repubblica la compravendita alla Camera. Questi 22 deputati, ci vogliono almeno 20 deputati per formare un gruppo autonomo alla Camera. Dunque 22, in teoria il numero ci sarebbe. Il problema, racconta Repubblica, ma racconta anche Libero, è che questi 22 deputati sono un po' una truppa così non molto omogenea, sono persone che vengono da esperienze politiche diverse, ci sono i Razzi e gli Scilipoti, ex Italia dei Valori, c'è Calearo, c'è Grassano che era della Lega, poi rifiutato dalla Lega. E infatti a pagina 3 di Libero si riuniscono i 22 responsabili, ma già tutti vogliono comandare. I numeri ci sono. Viene intercettato ieri al telefono anche Antonio Razzi, l'ex dell'Italia dei Valori, che dice al telefono a qualcuno: non hai la giacca? E vabbè, io qua dentro ho visto pure gente con l'umaglione. C'è la convocazione, per il momento siamo 12, dice Razzi, ma come non siete 22? Lo so, però c'è Catone che un giorno vuol stare con noi e un giorno no. Boh, non si capisce. Poi ci sono i deputati del Nord, Calearo, per esempio, che vorrà stare in un gruppo con i meridionali? Boh, non si capisce. E poi c'è Grassano. Grassano è un mistero un po' per tutti. Non si capisce se sta ancora con la Lega, se è leghista oppure no. Se vuol stare con noi di noi sud, che siamo meridionali, oppure no. Insomma, un po' una truppa così disomogenea, ecco, usiamo questo termine, di parlamentari, 22 parlamentari che però vorrebbero unirsi. La politica ieri peraltro si è animata, anche meno il dibattito sui giornali, per questa frase che Berlusconi avrebbe detto in una cena nella quale ha accusato Fini di avere stretto un vero e proprio patto con l'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il sindacato dei magistrati, un patto che sarebbe stato stretto di mutua assistenza, cioè le toghe avrebbero garantito una sorta di protezione a Fini e ai finiani e questi ultimi in cambio avrebbero agito in modo tale da bloccare ogni legge che non fosse gradita a pubblici ministeri e giudici. Una frase che peraltro Berlusconi non è che ha smentito, ha detto: io non ho fatto alcuna dichiarazione pubblica tranne quelle che sto facendo a voi, ieri ha detto questa frase. Sta di fatto che il cavaliere patto Fini ANM poi smentisce. Questo lo troviamo sui giornali come un altro elemento che per la verità non è una novità, ma che oggi ritorna sul palcoscenico della politica in primo piano, è quello della volontà da parte di Berlusconi di cambiare il nome a questo partito. Non gli piace più il nome PDL. Berlusconi: cambiamo nome al PDL, a pagina 17 del Sole 24 Ore Luca Ostellino. Qualsiasi idea per un nuovo nome è benvenuta al posto di PDL, un nome che non ha avuto presa tra la gente, tanti che ancora molti lo chiamano la PDL. Infatti, come la PDL? È il popolo della libertà, la popolo della libertà non suona molto bene. E infatti anche a pagina 6 del giornale la tentazione del cavaliere cambiare nome al PDL. Perché poi, Berlusconi si interroga anche qui secondo Paolo Bracalini, perché poi la PDL se pista per popolo? Questo già fa capire che il nome non va bene. E Paolo Bracalini dice: quale sarà questo nome? Avanti Italia, si è discusso di questo, oppure qualcuno dice torna Forza Italia, addirittura lì con l'inversione, Italia Forza, non si sa. Sta di fatto che Berlusconi, e non è la prima volta che se ne parla, è proprio concentrato a voler cambiare assolutamente questo nome PDL. La politica è tutta qui, 22 che si ritrovano, che però non si sa neanche come la pensano, e l'appello del capo dello Stato, governare in maniera concreta. E staremo a vedere certamente dopo Natale, anche con la decisione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento, si saprà qualcosa di più. Tutti gli occhi invece sono puntati ovviamente su quello che succederà domani a Roma. È inutile negarlo, c'è sicuramente molta apprensione, molta tensione, c'è la riforma dell'università che arriva all'ultimo passaggio in Senato, c'è il ministro Gelmini che fa un'intervista alla Stampa, pagina 9. Dialogo difficile con chi sa solo insultare. È una Maria Stella Gelmini che dice: la riforma ha iniziato il suo percorso 2 anni fa, dopo un anno è diventato disegno di legge, è stato esaminato da organi consultivi, francamente credo che il dibattito ormai sia stato ampio, e poi è difficile dialogare con chi insulta o entrare in una università quando ci sono gravi problemi di ordine pubblico. L'intervista di Flavia Amabile l'ha trovata a pagina 9 della Stampa. È una Gelmini che dice: insomma, il confronto è durato 2 anni, parla poi della riforma, una riforma in grande parte condivisa anche dalle opposizioni, un problema di ideologia che rifiuta il cambiamento, chi contesta le altre parti. Una Gelmini che dice: sì, aprire di più l'università ai privati, convincerli a cambiare cultura, investire nell'università, ma nel rispetto della loro connotazione pubblica. E certo, però, sullo sfondo ciò che preoccupa, purtroppo, cioè non si discute più della riforma, o non tanto più della riforma, ma di quello che saranno le questioni di ordine pubblico. Secondo Marco Ludovico sul Sole 24 Ore, il Viminale: dialogo ma duri con i violenti, questa è la linea. Tra l'altro è il tema del nostro sondaggio, io ve lo ricordo, ci chiediamo la questione degli arresti preventivi, intervenire prima per fermare i potenziali violenti, che ne pensate? Secondo voi è una soluzione giusta? È la soluzione che ha proposto il senatore Gasparri, che oggi fa un paio di interviste, una al Corriere della Sera, a Fabrizio Roncone, esordisce così: e facciamola questa intervista, ma deve essere chiaro che non ho mai chiesto arresti preventivi. Eccolo qua, Gasparri spariglia. Semplicemente ho evocato il 7 aprile 79, in quella circostanza si arrivò ad arresti, ma dopo un'inchiesta, un'indagine, è esattamente ciò che suggerisco di fare io adesso. Di preventivo serve un lavoro di investigazione. Lei suggerisce di indirizzare le indagini nei centri sociali, chiede Roncone. Sì, certo, esatto. Mi sembra innegabile che una certa violenza abbia trovato ispirazione e linfa proprio lì dentro. Beh, è un'accusa grave, senatore. Lei ha dei dubbi che le cose stiano così? E poi, insomma, Gasparri parla di quello che può succedere domani. Io mi dovrei sentire responsabile se succedesse qualcosa. Responsabile di cosa, scusi, chiede Gasparri. Beh, di aver alzato i toni, per esempio, senatore. Guardi, io non fomento, io chiedo solo il rispetto della legalità. Le stesse cose le dice al secolo XIX in un'intervista Bruno Lugaro. Ci sono potenziali assassini, lo ribadisce, nelle piazze. Tenete a casa i figli. Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, è corrosivo oggi. Figli, tenetelo a casa. Appello degli studenti ai figli di Gasparri. E poi la Stampa si concentra con Mattia Feltri sulle 16.000 dichiarazioni del prolifico Gasparri. 16.000. Se digitate sull'archivio dell'ANSA, chi può farlo? Feltri lo può fare, da giornalista. Trova 16.460 volte Gasparri negli ultimi anni. Uno score aggiornato a domenica 19 dicembre, per cui oggi sarà già oltre. E tra l'altro Mattia Feltri ricorda alcune delle dichiarazioni di Gasparri, non male. Per esempio, far passare Biagi per un martire a cui si impedisce di lavorare dopo che da 40 anni sta in Rai è come dire che si è impedito ad Alberto Sordi di fare l'attore o a Cicciolina di essere se stessa. Prendo atto che Biagi è come il confetto Falqui, indispensabile. Questo nel 2002. Biagi e Santoro stanno cercando con tutti i mezzi il martirio mediatico. Verrebbe proprio da dire, allora diamoglielo, no? Cercano la bella morte? Pazienza. Aprile 2002. Con Barack Obama alla Casa Bianca, forse Al-Qaeda sarà più contenta. Novembre 2008. A mio giudizio, la presenza di gay travestiti in TV danneggia l'immagine della categoria. Gennaio 2009. Ho acquistato uno scolapasta che manderò all'onorevole Di Pietro, che potrà agevolmente utilizzarlo come cappello alla sera quando rientra nella clinica psichiatrica dove certamente risiede. Febbraio 2009. Diliberto e Veltroni sono due falliti della storia. Aprile 2009. D'Alema è fermo a Stalin, maggio 2009. Facciamo la riforma e, come si dice a Roma, mannamoli per tetti, dicembre 2010. Questa è recentissima. Insomma, Gasparri che dichiara a più non posso. C'è anche una svolta su quello che è stato la vicenda. Una vicenda bruttissima di questo giovane di 20 anni che durante le manifestazioni dello scorso 14 dicembre ha colpito violentemente, forse l'avete visto nelle immagini, con un casco un ragazzo di 15 anni. Ora si è costituito, è stato ormai individuato, si chiama Manuel De Santis, ha 20 anni. Quello del casco sono io, ho picchiato Cristiano per difendere gli agenti, potevo ucciderlo, ora voglio parlargli. Eccolo qui, quello col casco sono io, parla con Repubblica. Daniele Mastrogiacomo intervista Manuel De Santis, ventenne, precario, pizzaiolo, che ha colpito violentemente con un casco il quindicenne Claudio, o meglio Cristian forse si chiama, che sarà operato tra l'altro oggi, sì, Cristiano, ecco, questo è il nome esatto, che verrà operato oggi, un colpo davvero tremendo, si vede con un casco poi da dietro, quindi è arrivato all'improvviso. Non so perché l'ho fatto, volevo solo evitare gli scontri, volevo che il corteo proseguisse il suo percorso, c'era tensione, confusione, ho protetto un blindato della polizia, ho cercato di allontanare la gente, poi mi sono gettato sul primo che ho trovato tra quelli che lanciavano sassi e bottiglie. Così parla nello studio dei suoi avvocati. Tra l'altro Daniele Mastrogiacomo fa capire che uno degli avvocati che lo difende, questo ventenne che si è autodenunciato, è Tommaso Mancini, principe del Foro di Roma e soprattutto difensore dei primi dissociati delle Brigate Rosse, Valerio Morucci e Adriana Faranda, e anche difensore di diversi militanti delle unità comuniste combattenti di quel processo del 7 aprile evocato in questi giorni. Incontra Repubblica questo ventenne, il padre si tiene la testa tra le mani, interrompe il racconto di Manuel, mi creda, siamo angosciati per questo dramma. Insomma, lui dice, non so perché l'ho fatto, voglio al limite parlare anche con lo stesso Cristiano, mi sono reso conto solo più tardi di quello che è successo, all'inizio pensavo, l'avevo visto alzarsi, pensavo che fosse tutto a posto. non c'erano infiltrati, non c'erano fascisti, non c'erano provocatori, c'era solo una grande confusione, non so neanch'io cosa sia accaduto. Parla insomma questo giovane che ora dovrà rispondere di reati, immagino gravi, anche forse di tentato omicidio, perché il colpo è stato davvero violentissimo. Per concludere la questione università, il Messaggero oggi racconta una chicca con Claudio Marincola davvero interessante, visto che la riforma dell'università parla anche di cercare di sconfiggere quella gramigna di parentopoli in università. E per qualcuno potrebbe essere l'ultimo colpo di coda di parentopoli. A poche ore dalla riforma, il rettore assume la nuora. È successo ieri, poco prima dell'approvazione della legge Gelmini, Università Roma 2, Ateneo di Tor Vergata, quello della spianata che ospitò la giornata mondiale della gioventù nel 2000. Il rettore da 2 anni è Renato Lauro, 71 anni, preside della facoltà di medicina, la stessa facoltà che ieri ha chiamato come professore associato alla cattedra di malattie dell'apparato respiratorio la dottoressa Paola Rogliani. Chi è? È la nuora del rettore. Il posto arriva in zona Cesarini, delimita un'epoca, perché a ridosso del Natale sotto l'albero si riuniranno in facoltà suocera, figlia e nuora, in pratica mezza famiglia. Infatti, nella stessa facoltà, nello stesso dipartimento, c'è anche il marito della signora, nonché figlio del rettore, Davide Lauro, 41 anni, professore ordinario di endocrinologia, cattedra detenuta prima di lui dal padre. Ovvio, anche questo è un gran classico. Ci sarebbe anche il nipote, il dottor Alfonso Bellia, ma il Magnifico nega questo ramo di parentela. Con il professor Bellia non c'è alcun legame. Mi viene attribuito solo perché è siciliano come me. Insomma, una storia raccontata da Claudio Marincola, Tor Vergata, in zona Cesarini, il rettore fa assumere la nuora. Ovviamente il rettore smentisce, sono tutti concorsi scherza, banditi nel 2008, quando io non ero ancora rettore. Per carità, c'è sempre una difesa legittima, eh? Avrà certamente ragione il rettore. Sicuramente il Magnifico ha ragione, io non ne ho dubbi. Sta di fatto che viene raccontata questa storia sul Messaggero in prima pagina. A proposito di prima pagina, andiamo sul Sole 24 Ore, dove c'è un interessante disamina dell'inchiesta di Banca Italia. Nelle case metà della ricchezza, questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, e in Italia la famiglia, l'ombrello anticrisi. La ricchezza netta cresce in totale a 8.600 miliardi. Rossella Bocciarelli racconta di come la ricchezza media per nucleo familiare in Italia è di 350.000 euro, considerando tutto, ovviamente attività finanziarie, attività reali, le abitazioni, eccetera. Il dato che però più mi colpisce di questa ricerca, che hanno sottolineato tutti, è che il discorso cambia molto, perché 350.000 euro di media non è neanche male. Il problema è sulla distribuzione della ricchezza. Ebbene, allora, la distribuzione della ricchezza, qui si scopre che l'ombrello anticrisi non è per tutti. Infatti, alla fine del 2008, la metà più povera delle famiglie italiane disponeva soltanto del 10% della ricchezza totale, mentre, udite udite, il 10% delle famiglie più ricche deteneva il 45% del totale. Quindi c'è una sperequazione abbastanza notevole per quel che riguarda la distribuzione della ricchezza. Comunque trovate tutto sul Sole 24 Ore, trovate molto anche della vicenda WikiLeaks, ancora, non solo per l'intervista di Assange, ma per le polemiche, le rivelazioni di un cablo riservato dell'ambasciatore Mel Sembler, allora è l'ambasciatore americano in Italia, sulla vicenda Calipari. E questo cablo riservato, che peraltro Palazzo Chigi ha smentito, è molto duro, cioè recita così: il governo italiano vuole lasciarsi alle spalle l'incidente, non intende danneggiare la nostra forte amicizia. Una vicenda che davvero fa dire, in una serie di interviste a Rosa Villecco Calipari, cioè la vedova Calipari, nonché oggi deputata del Partito Democratico, così hanno tradito Nicola. Al Corriere, per esempio, dice: per me è tutto chiaro da 5 anni e mezzo, l'avevo già capito che volevano insabbiare tutto, l'unica novità è che c'è un cablogramma ora, io non ne sapevo nulla, ma di tutto il resto, cioè della voglia di in qualche modo affossare tutto, per me è tutto chiaro. Ovviamente è l'apertura del Manifesto, il Manifesto con un editoriale di Giuliana Sgrena, che era la giornalista salvata da Calipari, era in quella macchina. Giuliana Sgrena titola, scrive in prima pagina: il caso Calipari per molti è solo un ricordo scolorito, certamente non per noi. Non avevamo dubbi che la ragion di Stato avrebbe prevalso perfino sul ricordo dei migliori servitori dello Stato, ma ora il sacrificio di questa memoria è confermato da un dispaccio USA secretato, rivelato da WikiLeaks. Un brivido corre lungo la schiena, l'idea che gli stessi uomini, Berlusconi, Fini, Letta, l'allora capo del Sismi Pollari, che avevano celebrato Calipari come un eroe, lo abbiano poi liquidato come un qualsiasi effetto collaterale della guerra. Questo Giuliana Sgrena in prima pagina del Manifesto. Chiudo con la Gazzetta, perché è davvero un Inter pazza, forte Benitez, questo è il titolo di prima pagina. Perché? Perché ormai è questione di ore, viene dato questione di ore il divorzio tra Benitez e l'Inter. Rafa Benitez, l'allenatore sono ancora io, ma da alcuni particolari si capisce che Benitez ormai non sarà più l'allenatore dell'Inter. Ne volete uno? Beh, ha iscritto la figlia in una scuola a Liverpool. Come dire, torno a Liverpool, almeno per il momento. Secondo particolare, se andate sull'home page dell'Inter, ufficiale dell'Inter, quello che celebra la vittoria, insomma, il trionfo, come campioni del mondo, per il secondo giorno del mondo, trovate le foto di tutti che esultano, ma non c'è una sola foto di Benitez che alza la coppa. Cioè, questa è un po' da Unione Sovietica, se mi permettono i cugini dell'Inter, cioè cancellare addirittura la foto di Benitez che alza la coppa da campioni del mondo. Ci fermiamo qui, votate il sondaggio sugli arresti preventivi per evitare le violenze, il GR.